dei personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Il bene non può esistere senza il male. Questo è un tema del quale hanno parlato tutti. È un rapporto simbiotico quello tra il bene e il male, con la lotta inevitabile che si scatena. È un tema antico quanto l'umanità, ne hanno parlato tutti: la psicanalisi, la letteratura, l'arte. Freud ha scandagliato la psiche umana e l'ha definita composta da due pulsioni contrastanti, appunto il bene e il male, dando anche un senso medico-scientifico a quel sentire comune che caratterizza gli esseri umani, che porta a stabilire una specie di tregua tra la parte più istintiva e animalesca e quella più razionale e intellettuale, e tutte e due queste parti albergano in ciascuno di noi. E nella storia dell'umanità ci sono stati diversi periodi particolarmente oscuri sotto questo profilo, drammaticamente nefasti perché repressivi in maniera esagerata, e lo sappiamo, quando si reprime non si ottiene mai niente di buono. Il caso dell'epoca vittoriana è emblematico, no? Ormai ci appaiono ridicoli con i cavalli che venivano coperti perché non si vedessero i loro membri, le mutande ai cavalli. Insomma, l'epoca vittoriana è emblematica perché ha generato anche orrori incommensurabili. Insomma, c'è una vicenda dove il bene e il male si intersecano paurosamente e si avvicendano nel ruolo di protagonisti, si rubano il centro del palcoscenico in un crescendo di colpi di scena. Oggi vi raccontiamo una storia che ha per protagonista un medico inglese, uno scienziato famoso, rispettabilissimo, un filantropo, un benefattore dell'umanità. Vive la sua esistenza agiata e dedita alla ricerca nella Londra dell'Ottocento. Il suo nome è Henry Jekyll. Il dottor Henry Jekyll era un uomo bonario, sulla cinquantina, di ampia corporatura, ben fatto e dal volto liscio, che rivelava qualcosa di scaltro forse, ma recava impressi tutti i segni dell'intelligenza e della gentilezza. Aveva una cultura ben al di sopra della media. Era dottore in medicina, ma anche in legge. Era laureato in letteratura ed era un rispettabile membro della società reale. Henry Jekyll vive la sua vita piacevole, irreprensibile, attorniato da amici come lui, come il dottor Astley Lanyon, suo compagno di scuola e poi di università, amico fraterno, medico, ricercatore, uomo cordiale, dall'aspetto sano, vivace e colorito. Poi c'è un altro amico, l'avvocato John Utterson, che però è diverso, un uomo alto, magro, polveroso, triste, ma molto amabile. Uno che sorride raramente, freddo, misurato, figlio emblematico della sua epoca repressiva, non beve per mortificare la sua inclinazione verso i vini pregiati, è attirato dal teatro ma non ha mai varcato la soglia di un teatro, però è un uomo di buon cuore, lo dimostra con le sue azioni. Ed è proprio l'avvocato Utterson che un giorno fa una scoperta sconvolgente che è destinata a dare il via agli avvenimenti che stiamo per raccontare. Suo cugino Richard Renfield gli racconta di aver assistito a una scena raccapricciante: una bambina di 8-10 anni che si scontra a un angolo di strada con un losco figuro, un ometto basso e minuto, che la fa cadere per terra con violenza e poi le passa tranquillamente sopra calpestandola. La bambina si mette a urlare, attira diversi passanti che fermano con decisione quel bruto. La folla che si è radunata è quasi sul punto di linciarlo e lui se la cava risarcendo la bambina, la famiglia della bambina, insomma, con un assegno da 100 sterline. È una scena terribile a vedersi, anche perché il cugino definisce l'ometto una creatura infernale. Non è facile a descriversi. C'era qualcosa di non chiaro nel suo aspetto, qualcosa di sgradevole, anzi, di veramente detestabile. Non avevo mai visto un uomo che mi ripugnasse tanto, e non ne so la ragione. Doveva avere qualche deformità, dava l'impressione di essere deforme, sebbene io non riesca a specificare la cosa. Aveva un aspetto anormale, ma non so dire in che senso. E quando il cugino pronuncia il nome dell'uomo in questione, l'avvocato John Utterson sente un brivido di freddo che gli gela la schiena, perché lui quel nome lo conosce bene. Questo bruto si chiama Edward Hyde e lui di Mr. Hyde ha sentito parlare dal suo caro amico, nonché cliente, il dottor Jekyll. Eh sì, perché mesi prima Jekyll gli aveva consegnato il suo testamento scritto di suo pugno, nel quale lui diceva che in caso di morte tutti i suoi beni sarebbero dovuti andare al suo amico e benefattore Edward Hyde, e che in caso di sua scomparsa o inspiegata assenza l'uomo avrebbe dovuto immediatamente prendere il suo posto in casa e al lavoro. È una comunicazione sconvolgente, è una preoccupazione per l'avvocato, era offeso come legale, come amico, cioè non sapeva nulla del beneficiario del testamento di Jekyll. Perché un uomo come Henry Jekyll, circondato da affetti e da amici, decide di lasciare tutto il suo patrimonio a questo sconosciuto? E adesso l'avvocato, per un gioco strano e beffardo della sorte, sa qualcosa di più di quell'uomo ed è ovviamente ancora più preoccupato. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. L'avvocato Utterson è sconvolto dalla sua scoperta, cioè ha saputo che Jekyll ha fatto testamento lasciando tutti i suoi beni a favore di un essere abbietto, violento, probabilmente pericoloso. Insomma, Utterson decide di confidarsi con Lennion, l'altro amico. In fondo i tre sono, come dire, un gruppo chiuso, tre amici cari. Ha paura che Jekyll sia finito in qualche faccenda losca, magari ricattato da quell'orribile Hyde per qualche oscuro motivo. Insomma, loro devono aiutarlo, ma Lennion non ne sa nulla. Gli dice che già da tempo Jekyll è diventato un po' stravagante, che hanno avuto divergenze di natura scientifica, ma soprattutto gli dice che lui non ha mai sentito parlare di questo Hyde. Utterson allora prende una decisione, vuole affrontare di persona Hyde, vuole vederlo coi suoi occhi, capire di quale natura sia il suo rapporto con Jekyll, la strana predilezione del suo amico, insomma i motivi di queste clausole testamentarie così assurde. E per questo si apposta sotto casa sua, quella che presume sia la sua casa, dove il cugino l'ha visto rientrare dopo la terribile scena della bambina. Dopo giorni e giorni di appostamenti, la sua pazienza viene premiata. Una sera vede arrivare Hyde. Riesce a scambiare con lui solo poche battute, ma questo omino, con incredibile destrezza, sgattaiola dentro la porta, se la richiude alle spalle. Utterson rimane sbigottito e terribilmente sconvolto da questo incontro. Mr. Hyde era pallido e pareva un nano. Dava l'impressione della deformità e aveva un sorriso sconcertante. Si era comportato nei miei confronti con una specie di crudele miscuglio di timidezza e arroganza. Parlava con una voce rauca, bisbigliante, e incuteva paura e disprezzo. Non sembrava una creatura umana. È proprio così. Se mai ho visto il marchio del diavolo su un volto di un uomo, è proprio su quello del nuovo amico di Jekyll. A questo punto l'avvocato può fare una sola cosa: parlare direttamente a Henry Jekyll, perché è un suo amico, deve metterlo in guardia da quella persona così sgradevole, così abietta, così pericolosa. E Jekyll minimizza: lo so, l'aspetto di Hyde non è rassicurante, ha dei modi discutibili, ma ci sono delle cose che lui non può spiegargli che lo legano a quel giovane. Jekyll fa il misterioso, però gli fa una richiesta precisa. Io mi interesso veramente del povero Hyde. So che lo hai visto, me lo ha detto, e temo che sia stato duro con te. Ma io provo sinceramente un grande, grandissimo interesse per quel giovane. E se io dovessi mai scomparire, vorrei che mi promettessi di appoggiarlo e di difendere i suoi interessi. Dimmi che lo faresti. Mi allevieresti di un gran peso se mi facessi questa promessa. E John Utterson è messo alle strette, è addolorato, è imbarazzato, però la richiesta del suo amico è veramente accorata, è sofferta e dolente. Insomma, Utterson, anche se ha malincuore pieno di dubbi, promette. All'incirca un anno dopo questi fatti, Londra viene messa sottosopra da un delitto di ferocia inaudita, che ha una cassa di risonanza ancora maggiore per l'alta posizione sociale della vittima. Una sera Verso le 11 una donna si affaccia alla finestra per ammirare la luna piena e assiste a una scena di orrore puro. Un signore di una certa età, dall'aria distinta, che sta camminando per strada tranquillamente quando arriva un altro signore, un uomo piccolo di statura, che improvvisamente, con un impeto d'ira, brandendo un bastone, getta a terra l'anziano e comincia a colpirlo con furia scimmiesca. Lo tempesta di colpi. La donna, la testimone, sente con orrore scricchiolare le ossa del povero vecchio, sviene per l'orrore. Quando lei rinviene, l'assassino è fuggito via. Sull'asfalto è rimasto il cadavere di Sir Danvers Carey, un membro del Parlamento. Nella tasca della vittima viene trovata una lettera indirizzata all'avvocato Utterson, l'amico del dottor Jekyll, il legale anche di Sir Carew. La polizia lo convoca, gli mostra il bastone con il quale l'assassino lo ha colpito selvaggiamente. È un bastone molto particolare che anni prima lo stesso avvocato aveva regalato a Jekyll. Insomma, non ci sono più dubbi. Il colpevole è sicuramente Mr. Hyde. La polizia lo va a cercare a casa sua, non lo trova, si è volatilizzato, si sono perse le tracce di lui. L'avvocato si precipita a casa di Jekyll, lo trova nel suo studio di scienziato, che è un ampio locale pieno di armadi a vetri, arredato con una grande specchiera, con una scrivania, un immenso camino nel quale arde un fuoco, e il dottore è seduto lì con un aspetto mortalmente affranto. Utterson, giuro davanti a Dio, giuro che non poserò più gli occhi su di lui. Ti do la mia parola d'onore che non ho più nulla a che fare con lui a questo mondo. Tutto è finito. E difatti lui non ha più bisogno del mio aiuto. Tu non lo conosci come lo conosco io. È in salvo. Perfettamente in salvo. Ricorda le mie parole. Non si sentirà più parlare di lui. E a conferma di quello che sta dicendo, Jekyll mostra a Utterson una lettera scritta di pugno da Hyde, nella quale l'uomo si pente di aver ripagato tanto malamente le gentilezze del dottore, assicura che intende scomparire nel nulla, ma l'avvocato ha un dubbio e mostra questa lettera al suo primo scrivano, che è anche un grafologo, e questo non ha dubbi. Anche se contraffatta, la scrittura non è di Hyde, ma è del dottor Jekyll. Basta confrontarla con quella del testamento per rendersene conto. Ma com'è possibile che un uomo così integerrimo, un uomo di scienza, una persona colta come Jekyll, adoperi uno stratagemma così meschino per difendere un assassino? Utterson non se lo sa spiegare. Il sangue gli si gela e nelle vene. Poi però gli eventi sembrano prendere una piega, diciamo, piuttosto positiva. Passa il tempo e c'è una taglia di migliaia di sterline che è offerta come ricompensa che rintracci Hyde, cioè l'assassino, anche perché la morte di Sir Carew è considerata un'offesa all'umanità. Ma Mr. Hyde è scomparso dal raggio di ricerche della polizia, sembra non sia mai esistito. Viene indagato il suo passato, è totalmente disonorevole, si diffondono storie sulla sua crudeltà, sulla sua vita vergognosa, sulle sue strane relazioni. Insomma, diventa un personaggio tristemente leggendario, cupo ma leggendario, ma nessuno sa dove sia. Dalla mattina del delitto lui è sparito. Insomma, a poco col passare del tempo tutti si dimenticano di lui. Anche l'avvocato Utterson comincia, come dire, a riaversi dal suo stato di ansietà, si sente più tranquillo nell'animo, anche perché adesso che l'influenza malvagia di Mr. Hyde ha smesso di incombere sul dottor Jekyll, questo sembra essere rinato a nuova vita. Esce dalla sua reclusione, rinnova i legami con gli amici, lavora, è attivo, fa del bene, insomma sembra avere ritrovato la sua pace. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è il dottor Henry Jekyll, uno stimato medico che svolge la sua professione di ricercatore nella Londra vittoriana del XIX secolo. un uomo colto, un ricco, è un filantropo, è un uomo affascinante, però ci si chiede come mai ha stretto un legame così particolare con Edward Hyde, un figuro losco che fa venire i brividi, eppure Jekyll lo ha difeso a spada tratta, è arrivato al punto da fare testamento a suo favore. Insomma, è un vero e proprio giallo che si spinge fino ai confini della natura umana, è un avvicendamento tragico tra le forze del bene e quelle del male, è un giallo che sta per travolgere tutti fino a un epilogo terrificante e inaspettato. Abbiamo già parlato di Hyde, abbiamo detto di quanto sia orribile, di come induca tutti coloro che lo conoscono a scansarlo. È un personaggio ambiguo, corrotto, che incute timore, dà la sensazione di essere molto pericoloso. E lo è, perché dopo essersi reso protagonista di episodi disdicevoli, come aggredire una povera bambina, a atteggiamenti violenti, alla fine arriva a uccidere. Uccide una persona illustre, Sir Danvers Kerr, un membro del Parlamento inglese. E poi però, mentre a Londra ferve la caccia all'assassino, lui si volatilizza nel nulla e perfino il dottor Jekyll, il suo amico, diciamo così, si arrende all'evidenza e promette che eviterà assolutamente quest'uomo. Lo promette al suo amico e avvocato John Utterson, che non vedrà più Hyde. Così fa, e l'influenza di Hyde nei confronti di Jekyll sembra un brutto ricordo. Jekyll riprende la sua vita di società, e poi però dopo un paio di mesi sparisce di nuovo. Utterson cerca inutilmente di incontrarlo, l'altro si rifiuta sempre. Così Utterson va a trovare l'altro amico, perché erano in tre gli amici, il terzo è Estill Lanyon. Da lui ha una bruttissima sorpresa. Ho avuto un colpo terribile, mio caro John, e non mi riprenderò più. Sarà questione di settimane. Ebbene, la vita è stata piacevole, l'ho apprezzata. Sì, signore, la vita mi piaceva. A volte penso che se sapessimo tutto, saremmo molto più contenti di andarcene. Non voglio più vedere Jekyll né sentir parlare di lui. L'ho finita del tutto con quella persona. Per me è come morto. L'avvocato insiste, ma non riesce a capire i motivi delle parole così misteriose e cupe dell'amico. Può solo constatare lo stato di prostrazione nel quale versa Lanyon, che stava benissimo prima di quel momento e che solamente una settimana dopo si mette a letto e muore. Muore lasciando all'avvocato una misteriosa lettera che dice deve essere aperta solo in caso di morte di Jekyll. Alcune settimane dopo Utterson riceve la visita di Poole, il domestico di Jekyll, che lo implora di andare a casa del dottore assieme a lui, e gli dice che da diversi giorni Jekyll si è chiuso dentro il suo laboratorio con la porta sprangata. Dall'interno provengono suoni poco rassicuranti. Lui mette fuori dalla porta del laboratorio delle ricette mediche con la richiesta di un particolare farmaco, e Poole riferisce che ogni volta che lui torna con il farmaco, questo farmaco non va bene, e da dietro alla porta sente delle voci, c'è qualcuno che sbraita imbestialito e che pare rompere tutto. Arrivano a casa di Jekyll l'avvocato Utterson e Poole, il domestico, e sentono distintamente provenire da dietro alla porta del laboratorio, alla porta sprangata, dei rumori strani, suoni confusi, lamenti, pianti. L'avvocato si convince che là dentro si trovi Edward Hyde, tornato da chissà dove, e che questo orribile personaggio, in uno dei suoi gesti di ira e di violenza, abbia ucciso Jekyll. E insomma, non c'è altro da fare che entrare, bisogna sfondare la porta. Mentre la scure si abbatte con violenza contro il pesante legno della porta, dall'interno del laboratorio si eleva un grido terrificante, è il lamento di morte di un animale ferito. Quando finalmente Utterson riesce a entrare, la scena che gli si para davanti è quella di un inferno dantesco. Proprio al centro della stanza giaceva il corpo di un uomo dolorosamente contorto e ancora palpitante. Ci avvicinammo in punta di piedi e lo rivoltammo sulla schiena. Era il terribile volto di Edward Hyde. Era vestito con abiti troppo larghi per lui, abiti della misura del dottore. I muscoli della sua faccia ancora si contraevano in una parvenza di vita, ma la vita era completamente cessata in lui. Una fiala che teneva in mano, dal forte odore di medicinale, mi faceva capire che ci trovavamo in presenza di un suicida. Quindi Hyde si è suicidato con l'acido prussico, la scena è agghiacciante. Però c'è un'altra domanda, dov'è Jekyll? Sarà vivo? Ovunque si trovi, insomma, la porta era sprangata, non ci sono altre uscite possibili. E poi Utterson trova una busta sigillata indirizzata a lui. E a parte un foglio con un messaggio di Jekyll. Mio caro Utterson, quando questo foglio cadrà in tue mani, io sarò scomparso. In quali circostanze non posso ancora prevederlo, ma il mio istinto e tutte le condizioni di questo mio indicibile stato mi dicono che la fine è certa e prossima. Leggi allora, per prima cosa, il racconto di Lennion e poi rivolgiti alla confessione del tuo indegno e infelice amico, Harry Jekyll. La lettera di Lennion racconta molto dettagliatamente di una sera in cui Hyde va a trovarlo. Jekyll lo ha mandato a recuperare una certa cassetta che lo stesso Lennion aveva prelevato dal laboratorio di Jekyll su suo ordine. Lennion ha guardato dentro a quella cassetta. È un medico anche lui, come Jekyll è un bravo chimico. Ha capito che tutte quelle boccette, quei sali servono a preparare una pozione, forse una droga, ma soprattutto un antidoto. A cosa serve ancora non lo sa. A questo punto Hyde è in preda a una visibile agitazione che lo rende ancora più sgradevole e propone a Lennion un quesito terribile. Volete un buon consiglio? Volete essere saggio? Permettetemi di lasciare la vostra casa con questa cassetta senza ulteriori parole. Oppure la curiosità domina in voi? Pensateci bene. Se deciderete di lasciarmi andare, resterete come prima, né più ricco né più saggio. Oppure, se preferite sapere, un nuovo mondo di cognizioni, nuove vie verso la fama e il potere vi saranno aperte davanti. Qui, in questa stanza, in questo attimo, la vostra vista sarà abbagliata da un prodigio tale da scuotere l'incredulità di Satana. Naturalmente Lennion non può far andare via Hyde senza capire tutto quello che sta capitando. Gli chiede con tutte le sue forze di svelargli il suo terrificante mistero. Per tutta risposta Hyde mischia i diversi ingredienti delle boccette in maniera febbrile, aggiunge dei sali che trasformano il colore e la consistenza del liquido, infine beve alcuni sorsi della pozione. Poi inizia a gridare, barcolla, vacilla, si accascia a terra e in preda a degli spasmi lancinanti, sembra una bestia ferita. Poi la faccia gli diventa nera, i lineamenti si scompongono, si dissolvono, si alterano per cambiare, per dare vita a un prodigio terribile, un prodigio carico di male, di orrore, di sofferenza. Davanti a Lennion, pallido, tremante, mezzo svenuto, con le braccia che annaspano in avanti come un uomo che resusciti, si trova Harry Jekyll. Per Lennion è troppo. L'orrore, l'assurdità che si è compiuta davanti a lui lo fanno uscire di seno. Il dottore si ammala, come sappiamo, dopo pochi giorni muore per l'incapacità di dominare quello che ha visto. Utterson è sempre più sconvolto, afferra con le mani tremanti di orrore e di disperazione la lettera di Jekyll, pronto a leggere il seguito di quell'avventura al limite dell'umano. Ha compreso che il morto orrendo nello studio non è Hyde. In realtà Hyde non esiste, è il morto, è il suo povero amico Jekyll. E capisce che Jekyll è stato sopraffatto da Hyde. Nella bellissima trasposizione televisiva della vicenda del dottor Jekyll, realizzata nel 69 dall'immenso Giorgio Albertazzi, il protagonista prende coscienza di quello che ha fatto. Utterson, cosa credi che sia il male? Questo essere familiare e diabolico, col quale mi identifico. Perché è una sintesi del male e non un superuomo? Forse perché l'uomo fatto dall'uomo non può essere che l'espressione della parte più bassa della natura umana. La spiegazione è alla base stessa del mio essere. Come fine delle mie ricerche scientifiche, non mi sono mai posto il bene, ma la mia concupiscenza. La droga, infatti, non è discriminante, non è né diabolica né divina. Apre semplicemente le porte alla mia vera natura. Se ciascuna parte potesse essere riposta in un'entità separata, pensa Jekyll, la vita sarebbe alleviata di tutto quanto ad insopportabile. L'ingiusto potrebbe andarsene per la sua strada, liberato dalle aspirazioni e dal rimorso del suo gemello onesto. E qui il confine tra la scienza e la filosofia cade. È il giusto che cammina tranquillo e sicuro, compiendo il bene separato dal male. La maledizione del genere umano, sostiene Jekyll, sta nel fatto che i due elementi contrastanti, cioè il bene e il male, sono legati assieme in continua lotta. Ecco perché, da chimico abilissimo qual è, crea una pozione destinata a scindere le due nature. Ecco perché nessuno poteva avvicinarsi a Hyde senza un moto di repulsione, senza comprenderle la natura, perché gli esseri umani, così come noi li incontriamo, sono un miscuglio di bene e di male, di Hyde e di Jekyll. Hyde invece, unico nel suo genere, vive la situazione di male puro. Purtroppo il male puro vince sul bene, lo vediamo tutti i giorni anche oggi. Hyde lentamente si impossessa di Jekyll. L'antidoto per tornare dalla condizione bestiale a quella normale funziona sempre meno, fino a quando non funziona più. Hyde diventa Jekyll senza che Jekyll abbia più il controllo su di lui, fino a quando, consapevole della propria malvagità totale, Hyde, messo alle strette dalla vita, si suicida in un ultimo gesto che forse lo riscatta dalla sua condizione sconsiderata di orrore e di efferatezza. E così il colpo d'ala terribile del dottor Jekyll è stato quello di dividere il bene e il male, ma noi sappiamo che il bene e il male non possono essere divisi, fanno entrambi parte della nostra natura e della nostra personalità. Se volete mandare dei commenti o regalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, venite a cercarmi nei miei social, Facebook, Twitter, Instagram, nei social del Falco il Gabbiano, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.